Luponer Summer Spurgo. Eccoci qui alla puntata numero 12 della seconda stagione di Luponer Summer Spurgo, probabilmente la penultima, perché la prossima, la numero 13, sarà l'ultima prima dell'inizio della stagione autunno-inverno di Luponer, come potete sentire in diretta dagli studi di Radio R, la voce di Vanni, che sono io, e di Flamin, che è quel tipetto che va salutato all'inizio. Bene, abbiamo ascoltato all'inizio, a parte la mia raucedine, anche un brano dei Zug, Zona Utopica Garantita, che è una band di punk elettronico, diciamo tra IBM e influenze CCCpiane, con tanto di presenza di Danilo Fatur in persona nella formazione. Composta da Frasco e Jules. Frasco purtroppo ultimamente ci ha avuto dei problemi gravi di salute, quindi non so quale sarà il futuro degli Zug, ma nel frattempo possiamo comunque zompettare ascoltando quelle cose che sono già uscite. Questo brano che abbiamo ascoltato si chiamava Easy Going Girl, tratto dall'album Le Aberranti Selection Zug Super Compilation, uscito per Oraculo Records. E ora il metallo con gli Azazel. Azazel sono una band di black metal finlandese, che cioè, vuol dire qualità di solito, da Manta, il brano, la città da dove provengono, Azazel. Questo è il loro quarto album, intitolato Ave Dominus Luciferi, così per rimanere sempre in tema della lingua finlandese. Il brano che ascolteremo adesso è Ave Satanas, Lord of Fire, Azazel. Ah! On Air Summer Spurgo. Code è un pezzo che vanno in giro dal 2012, sono un duo di Los Angeles, California, composto da Sarah Taylor e Ryan George, fanno Industrial, IBM, e il brano che abbiamo ascoltato ora si intitolava Wishing Well, dal loro ultimo EP Yours with Malice. Ora cambiamo stile? Sì, cambiamo stile, ma mica tanto, perché si parla di CZGX, progetto ormai, ahimè, solista di Luna Blanc, perché il suo vecchio socio è, ahimè, scomparso, e a lei pure, a noi tutti quanti. Comunque lei si è cotta su da per terra e ha pubblicato un album nuovo dopo 4 anni di lavorazione. Per ovvi motivi. L'album si intitola Sinner, il brano che andiamo ad ascoltare ora si intitola Love Me Harder. CZGX. Look what you did to me. till I'm in tears. Poner Summersburgo. We'll be right back. Oh, la Pest Records, che è un'etichetta discografica rumena, transilvana per l'esattezza, da un po' ci manda dei promo, tra i quali ci hanno colpito questo dei Dark Reflection, una band debuttante al primo EP italiana. L'EP si chiama Under the Sign of Vlad Tepes, quindi c'è un piccolo, diciamo, nesso con la Romania che ospita la pubblicazione. Il brano che abbiamo ascoltato è The Forest of Lusia, e tutto farebbe sembrare che si tratta di un gruppo rumeno, anziché, però sappiamo che è italiano, ma non lo scopro ora, che è di Tulenti, addirittura marchigiani, qua dietro l'angolo, Dark Reflection, che bravi, sono arrivati qua senza passare per il privilegio campanilistico, cosa che invece tocca ai terzo processo. Vengono da Sinigallia, fanno synth punk lo-fi, che dire, li ho ascoltati perché c'è Temu alla batteria, che è una vecchia conoscenza della scena indie locale, per cui ascoltiamo un brano da questo EP di debutto del terzo processo, chiamato Zanzibar 1993, e il brano invece è My Spell, terzo processo. Summersburgo. Jake sang with his life like his namesake. His wife May eulogized with a laugh. After the wake, she cried open his suitcase. Found a knife in a stash of women's photographs. Tied this with a lipstick, kissed off. Fingers and thorns like guns pressed to the temples. said to her daughter Loretta, if there's anything you miss, grab it. Hit a storm going towards Marietta, high beams on the sleeve made sheets of TV static. Like nice sign off to the morning broadcast. And they said you're gonna stay a while in your uncle's attic. Basket by the car, made a thing, catching pink petals as they fell to the grass. Scanned the town from the small round window, found a cherry blossom by the laundromat. Through the naked limb she saw the church steeple. Felt like God was peeking through the attic peephole. That night she heard a hiss, a low voice whispering, felt the thrill she gets when the highway dips. Pin pricks missed all the sunburned skin. Even with a jaw crunched, his words shaped her lips, saying, lift your voice to me with the noise of sin. Your mouth was made for worshiping. She joined the choir and sang, staring at a martyr's painting. Flayed and swayed in the flag of his skin. One day a boy drew a gaze to the stage as he kissed a twisting snake. All man ready men, so you say his praise, but I ain't crazed by no fever. You see they got no taste for a true believer. That fall she spent a night with a boy to drive in, a loss in the fog of the woods. When she told him she could hear God's voice, he said, Loretta, you know better. This ain't Hollywood. Silver screen's been leaking into your thinking. And she kissed him hard to keep the boys from screaming. Said, I told my secret, you're next. His smile screwed up tight like a wince. Truth is, I keep my rattlers toothless. Have a hard time biting with their fangs missing. Now listen, I'm still one of God's children. One night, through snow-covered lashes, he looked at her with a sudden sadness and said, let's enjoy this season. Come spring, I'm leaving alone. She cried when she saw a flock of birds returning home. They kissed goodbye and he climbed in his truck. She plucked pink petals from his hair as the engine started up. Back to whisper, child is a lesson in this. Forget the boy, prove you love to me. She disappeared in the edge of the greens. Next day, may search the woods with her brother. I'm past the creek, under canopy cover. We're above the moon in this ancient moon. The red lay in his alien rooms. The sun cut through the shade, brought a glow to her face. The night air, the violet shine of her open eyes. Her neck a mess of snake bites and flies. The Morning Gazette read, Cleopatra of Marietta, the tragic death of quiet girl Loretta. Her voice will live on in us forever. Da Athens, non Grecia ma Georgia, arrivano i Bambara, attualmente di base a New York. Comunque è una band americana che fa, come si giostra tra post-punk, noise rock, quella roba lì, bella caciarona. Dall'ultimo album Burt Marx abbiamo ascoltato il brano Loretta. Non si chiama Loretta, ma si chiama Emma, la cantante dei Gaupa, che arrivano da Falun in Svezia, fanno stoner rock, doom psichedelico, quelle robe là che ci piacciono a noi sballoni. È un po' che girano, però mi sono stati fatti notare di recente, mi sono accorto adesso della loro esistenza, per cui sono andato subito ad ascoltare l'ultimo EP Fear, e da questo EP ascoltiamo il brano 10 of 12. We'll be right back. Luponer, Summersburg. Viva la mia maestra degli elementari, diceva meglio agili che forti, meglio morti che offuscati, meglio marti che innamorati. Diva, questo è il titolo del brano di Dada Sutra, che è un'artista milanese, Caterina Dolci, bassista e cantante, che scopriamo ora essere già passata pure per Recanati quando si presentò come finalista al premio Città di Recanati, o meglio Festival di Musicultura. E andiamo avanti, sì, abbiamo superato anche questa e quindi siamo pronti per Death and Vanilla. Death and Vanilla sono una band di free psichedelico svedese da Malmo. Di recente hanno pubblicato una colonna sonora farlocca per una ghost story televisiva del 1968 intitolata Whistle and I'll Come to You. Non l'ho vista, forse nemmeno esiste, però loro si ispirano un po' alla psichedelia retro e un po' ai Throbbing Crystal, e il risultato è questa roba qua. Ascoltiamo un brano che si intitola Walk on the Beach, Death and Vanilla. Thank you. Ancient Malice invece sono un bel gruppo, death metal, grindcore, ma anche black, azzarderei io, dall'Irlanda. Questo è il loro album di debutto, Accept the Vile Gifts of the Dead, e il brano che abbiamo ascoltato era Tolling in Glass Castles, e così si conclude la puntata numero 12 di Lupo Nero Summer Spurgo. La prossima sarà l'ultima di questa stagione, dopodiché partiremo con la stagione autunno-inverno in radio FM. Ci salutiamo con questa, per questa puntata, con i Paradox Obscure, che sono una band di synth pop ABM dalla Grecia, se non sbaglio. No, vengono proprio da Atene, Grecia. Il loro ultimo album si titola Icona e ascoltiamo il brano Iconic B. Paradox Obscure, e questo era Lupo Nero Summer Spurgo! You're my local hero, right? Lupo Nair, Summersburgo.